Notizia veramente clamorosa. Solo lo 0,4% dei dentisti, in pratica quasi nessuno, dichiara oltre 300.000 euro lordi l'anno, anche se l'impianto dentistico vi è costato 20.000 euro e nonostante il vostro dentista magari sfrecci su una Porsche. Non solo. La maggior parte dei dentisti, almeno stando alle loro dichiarazioni dei redditi, guadagna meno di 50.000 euro all'anno, più o meno come un impiegato di medio livello. E questo nonostante il giro d'affari del settore, dice l'Agenzia delle Entrate, sia di 17 miliardi di euro l'anno. Qualcosa non torna. E infatti un anno e mezzo gli accertamenti dell'agenzia hanno portato a scoprire 87 milioni di imposte evase. Un settore ad alto tasso di evasione nonostante i pazienti abbiano la possibilità di scaricare il 17% dei costi delle cure mediche nella dichiarazione dei redditi. C'è però almeno una regione in Italia dove i furbetti hanno filo da torcere. Ma questa è un'altra storia e ve la racconteremo domani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.